Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici. Dopo le elezioni regionali di un paio di settimane fa e nuovi equilibri anche elettorali che esse sembrano per ora prefigurare, sono ripresi i dibattiti e gli interrogativi sulla tenuta del governo, sull'efficacia della sua azione, sulla riforma elettorale, il tutto in vista delle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica che si svolgeranno fra poco più di 2 anni. E allora, per avere una sorta di catalogo, di agenda delle cose da fare, consiglio il libro di uno dei più noti politologi italiani, che è stato anche membro per molti anni del Parlamento, e cioè Gianfranco Pasquino, che ha scritto Minima Politica, 6 lezioni di democrazia, pubblicato da UTE, 376 pagine, 14 euro. Parafrasando in forma di omaggio il titolo di un celebre libro di Theodor Adorno, Minima Moralia, l'opera di Pasquino vuole illuminare il minimo di conoscenze politiche che i cittadini dovrebbero acquisire se desiderano adempiere efficacemente ai loro doveri civili e democratici, così l'autore. E questo è importante. Pasquino infatti sente l'obbligo civile e scientifico, così lo definisce, di combattere una ignoranza che non riguarda soltanto gli uomini e le donne in politica, ma avvolge i comunicatori a tutti i livelli. Un'ignoranza che qualche volta non è neppure consapevole di sbagliare, di confondere, di manipolare, e che rende la situazione sempre più drammatica. Pasquino sviluppa il suo ragionamento affrontando 6 temi: quello delle leggi elettorali, quello della rappresentanza politica, dei presidenti della Repubblica, del deficit democratico, della governabilità e del rapporto tra democrazia e liberalismo. Questi temi sono presentati dall'autore attraverso la narrazione dello Stato e della descrizione della storia del dibattito su ognuno di esse. Ma non spaventatevi, il libro non si rivolge agli esperti e agli studiosi, perché, come ha detto appunto Pasquino, egli vuole parlare a tutti i cittadini e alle cittadine che vogliano svolgere con responsabilità il loro ruolo, a partire naturalmente dal compito principale, che è quello di votare. E sentiamo allora da Pasquino come affronti questi temi. Buonasera a Gianfranco Pasquino. Buonasera, dottor Carrubba. Professor Pasquino, partiamo dalla presentazione del libro e degli intendimenti che lei qui illustra. Lei scrive nelle prime righe del libro che ha sempre cercato di fare un film che renda conto dell'inizio, sviluppi la trama, conduca conclusioni e spiegazioni comparate. Ecco, se dovesse farci un trailer, una sintesi di questo film, che cosa ci metterebbe dentro? La politica italiana ha una storia, ha una storia lontana e ha una storia recente, ha un presente che non può essere che spiegato con quello che è successo prima di questo presente, e le cose che si fanno giorno dopo giorno nel presente incidono sul futuro nostro e, come sento dire ripetutamente, dei nostri figli. Quindi quando si vuole fare per esempio una legge elettorale, si sa che c'erano delle leggi elettorali prima, alcune avevano degli inconvenienti, forse riflettendo sugli inconvenienti si potrebbero fare delle leggi elettorali migliori, e magari lasciando perdere il latino ma chiamandole con il nome di chi introduce quel disegno di legge. Riprendo questo termine, questo riferimento che lei ha fatto alla riflessione. Infatti lei parte nel suo libro da una preoccupazione che io condivido molto, e cioè la constatazione che l'opinione pubblica già quasi non esiste, così scrive. Che cosa comporta questa assenza di un'opinione pubblica informata in Italia in particolare? Comporta che abbiamo delle reazioni improvvise, qualche volta qualcuno che si lamenta più forte di altri viene sentito, però gli altri non fanno molto attenzione a quello che dice, e quindi c'è una reazione di una parte di settori sociali molto diversificati fra di loro, ci sono delle risposte improvvisate da parte dei politici, poco resta sia delle motivazioni della reazione iniziale che delle risposte, e qualche giorno dopo si ricomincia da capo, magari da un'altra parte, magari con qualche politico più avvertito o qualche politico meno avvertito, il quale produrrà delle sue reazioni a sua volta, le mette su Twitter o su Facebook, e poi si va avanti così senza sapere esattamente da parte dei politici che cosa pensa l'opinione pubblica, e senza che ci sia una vera pressione dell'opinione pubblica, in questo caso non su un politico qualsiasi ma magari su un ministro o forse sul Parlamento. Affrontiamo alcuni temi che tocca nel suo libro, cominciando dalle leggi elettorali. Innanzitutto lei scrive che queste leggi elettorali sono fondamentali, sono importanti per ristabilire un rapporto tra elettori, la cito, e rappresentanti governanti, anzi che questo rapporto è proprio fortemente influenzato dalla legge elettorale che viene utilizzata. Poi le finalità delle leggi elettorali le ha sintetizzate in una tabella in cui distingue le riforme elettorali a secondo che abbiano una visione partigiana o sistemica. In Italia a che punto siamo? In che direzione stiamo andando nel confuso dibattito sui sistemi elettorali? Mi piacerebbe sapere dove stiamo andando, perché quello che riportano i giornali sulla legge elettorale attualmente in discussione, l'ennesima legge elettorale che verrebbe prodotta dal Parlamento, sono in realtà molto carenti dal punto di vista dell'informazione. Ci si dice con grande orrore che sarà una legge elettorale proporzionale, dimenticando che praticamente in tutta Europa i sistemi politici contemporanei, fra l'altro le democrazie contemporanee, hanno dei sistemi elettorali proporzionali. Le famose democrazie scandinave le hanno da 100-110 anni all'incirca, ma un po' altrove ci sono sistemi elettorali proporzionali. Fra l'altro, come forse vede, utilizzo il plurale perché non esiste la proporzionale, esistono diversi sistemi elettorali proporzionali. Secondo, gli affibbiano questo nome Germanicum, mentre non ha quasi nulla a che vedere con il sistema elettorale tedesco, il quale è molto più articolato. E in terzo luogo sembra che si preoccupino sostanzialmente dei partiti che entreranno in Parlamento e di quelli che forse verranno tagliati fuori se si terrà ferma la clausola del 5%. Mentre secondo me ci sono due cose che dovrebbero dirci che sarebbero importanti. Le liste saranno ancora bloccate, non ci sarà nessun voto di preferenza, saranno possibili candidature multiple come attualmente, lo ricordo, la legge Rosato contiene candidature multiple oppure no? E in sostanza, con quale criterio si valutano le leggi elettorali? Devono essere leggi elettorali che servono al sistema politico, sistemiche, oppure che servono a chi ha una maggioranza in un determinato momento, che vuole avvantaggiare se stesso, magari svantaggiare i suoi oppositori politici e quindi partigiane, nel senso che valgono solo per chi sta dalle loro parti o con le loro parti. Nessuno parla in realtà del modo con il quale dare potere agli elettori. Ecco, e su questo lei si sofferma quando parla della rappresentanza politica. La democrazia si fonda sulla rappresentanza e lei insiste in questo capitolo su una parola che aveva già affrontato nel capitolo sui sistemi elettorali, cioè la governabilità. Che nesso c'è tra elezioni, governabilità e rappresentanza, appunto? Allora, tanto per cominciare, in nessun sistema elettorale nelle democrazie parlamentari serve per eleggere il governo. Il governo nelle democrazie parlamentari si fa in Parlamento, si disfa in Parlamento, lo si trasforma, qualche volta lo si sconfigge e poi si vedrà. In secondo luogo non è affatto vero che governabilità significa ridurre la rappresentanza, perché sarebbe curioso se pensassimo che meno rappresentanti più governabilità, meno rappresentanza, cioè meno attenzione alle preferenze, agli interessi, alle aspettative, usiamo una parola grossa, agli ideali degli elettori, migliore governabilità non esiste da nessuna parte. Quanto migliore è la rappresentanza politica in Parlamento, tanto più probabile la governabilità, che per di più deriva ovviamente molto spesso anche o forse soprattutto dalla capacità dei governanti. È giusto cercare di avere un governo stabile perché ha più probabilità di essere capace ed efficace, ma non è giusto pensare che riducendo la rappresentanza sia automaticamente governabilità. Se non abbiamo ministri capaci non avremo nessuna governabilità. Lei è molto netto su un altro tema che è diventato molto popolare in questi mesi, cioè la cosiddetta democrazia illiberale. Scrive: in assenza di alcuni elementi fondamentali del liberalismo che attengono prioritariamente i diritti fondamentali dei cittadini, non solo quei regimi non meritano la qualifica di liberali, ma non debbono nemmeno essere qualificati come democrazie elettorali. Le sedicenti democrazie illiberali non sono affatto rese democrazie da procedimenti elettorali fraudolenti. Ecco, saremo capaci, noi che condividiamo questa sua tesi, di convincere chi invece crede che la democrazia possa essere illiberale? Anzitutto, naturalmente, io sono molto contento che lei, che so che è un vero liberale, condivida quello che scrivo. Questo mi pare importante. In secondo luogo, il liberalismo è un insieme di principi che riguardano certamente i diritti dei cittadini, ma che riguardano anche i doveri dei cittadini. I cittadini, se vogliono avere un sistema politico ben governato, debbono obbedire alle regole. Quando non gradiscono più quelle regole, cercheranno di cambiarle, meglio se le cambiano ovviamente attraverso il voto. Il liberalismo è anche una tecnica di costruzione di uno Stato democratico, e cioè deve esserci istituzioni separate, deve esserci la responsabilità dei governanti nei confronti dei governati, e quindi deve esserci una buona legge elettorale, e deve esserci anche, come dire, un certo spirito che mantiene insieme tutto questo e che poi produce il potere dei cittadini, naturalmente, nella scelta di rappresentanti e governanti. Questa è democrazia. Ma se togliamo i diritti ai cittadini, se per esempio incidiamo sulla libertà di stampa, se impacchettiamo, dirò così, o imbottiamo la magistratura di magistrati che sono fedeli al potere politico di quel momento e non invece fedeli alle leggi che stanno nella Costituzione, allora noi stiamo andando verso una democrazia che qualcuno chiama illiberale, ma che alla fine non risulta essere neppure più democratica. Ma ci vogliono anche, lei lo ricorda nelle ultime righe del suo libro, cittadini che ci credono. Esatto, e questo è un problema, perché cittadini che non si interessano alla politica, che si informano poco di politica e che partecipano ancora meno, finiscono per loro aprire lo spazio, addirittura una voragine nella quale precipita non solo il liberalismo, ma certamente anche la democrazia, cioè il loro potere in quanto cittadini. Grazie a Gianfranco Pasquino, autore di Minima Politica. Buona serata. Grazie a voi. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Se Gianfranco Pasquino ci ha condotto a capire meglio i meandri della politica, un'utile integrazione può venire dal libro di un altro noto studioso, questo un sociologo, Luca Ricolfi, che ha scritto La società signorile di massa, pubblicato dalla Nave di Teseo, 268 pagine, 18 euro. Il titolo è la definizione coniata dall'autore per l'Italia, un paese che si lamenta, dove tutto sembra che vada di male in peggio, secondo una narrazione, per usare una parola di moda, in voga tra politici, giornalisti e intellettuali, che hanno montato, scrive Ricolfi, una gigantesca macchina retorica intorno a tutto ciò che ha più possibilità di suscitare sentimenti di pietà e indignazione, dipingendo un quadro quasi apocalittico dove imperano povertà, disoccupazione, sottoccupazione, omettendo però di specificare che si sta parlando di una minoranza della popolazione, mentre l'esperienza diretta, aggiunge, finisce inevitabilmente per mostrare quel che succede alla maggioranza e che è tutt'altro che drammatico. Con dati e analisi inequivocabili ma alla portata di tutti, Ricolfi smonta questa narrazione e mostra che gli italiani se la passano molto meglio di quanto i media e i comizi dipingano. La nostra, scrive, è una società signorile di massa, cioè una società opulenta in cui l'economia non cresce più e i cittadini che accedono al surplus senza lavorare sono più numerosi dei cittadini che lavorano. Questo è il punto. L'invidiabile tenore di vita degli italiani è mantenuto nonostante gli italiani non lavorino. Egli ricorda infatti che fra i cittadini italiani ultra quattordicenni la percentuale di quanti non svolgono alcun lavoro supera il 50%. Il tenore di vita degli italiani dunque è garantito dalla rendita, cioè dalla ricchezza accumulata per esempio in proprietà immobiliari, e dalla generosa spesa pubblica che ha alimentato canali assistenziali, per esempio le pensioni, molto molto generosi. In queste condizioni naturalmente non si potrà andare avanti all'infinito. La conclusione di Ricolfi infatti è preoccupante. Il ristagno della produttività, scrive, combinato con la nostra preferenza per il tempo libero, renderà sempre più difficile aumentare ancora la nostra ricchezza. Prima o poi, più prima che poi, la stagnazione si trasformerà in declino, un declino lento ma sicuro, una sorta di progressiva argentinizzazione del paese. E dunque, conclude, bisognerà riprendere a lavorare, creando le condizioni perché il lavoro ci sia e perché una quota sempre maggiore di italiani ci possa accedere. Un altro libro, questo di Ricolfi, dunque eloquente e istruttivo, che, come quello di Pasquino, ci invita a guardare all'Italia con le lenti scomode della realtà. I libri di Pasquini e di Ricolfi potranno trovare un utile complemento in altrettanti volumi di due storici che ricostruiscono la storia italiana e che dunque possono aiutarci a comprendere come siamo arrivati al punto in cui ci troviamo. Il primo è Miguel Gotor, che insegna all'Università di Torino ed è stato anche parlamentare nella scorsa legislatura. Il suo libro si intitola L'Italia del Novecento, dalla sconfitta di Adua alla vittoria di Amazon, è pubblicato da Einaudi, 568 pagine, 22 euro. Anche questo è il libro di uno studioso che applica un'impostazione scientifica rigorosa, ma vuole farsi capire da tutti e si rivolge a un pubblico ampio, ricostruendo minuziosamente la storia del paese Italia, così scrive, seguendo in particolare i nodi della modernizzazione che il nostro paese ha dovuto affrontare nel secolo scorso. E molte sono le interpretazioni della storia d'Italia e molte di queste sono state sottoposte a una lettura critica, se non addirittura revisionista. Gotor affronta anche questo aspetto smontando gli elementi polemici e le deformazioni ideologiche per cercare di far parlare i fatti. E parlando degli avvenimenti più recenti, Gotor conclude che la Repubblica dell'antipolitica non appare in grado di uscire con le sue sole forze dalla crisi di stagnazione in cui è precipitata e della quale allo stesso tempo la causa principale è la vittima sacrificale. L'altro libro affronta un periodo più breve, ne ha autore uno studioso inglese, John Foote, molto appassionato di storia italiana, anche perché lui stesso è bisnipote di una signora italiana. Foote insegna all'Università di Bristol e ha scritto L'Italia e le sue storie, 1945-2019, pubblicato dalla Terza, 418 pagine, 25 euro, con la traduzione di Enrico Basaglia. Foote, dicevo, conosce bene l'Italia, oltre che per le radici familiari, per averci vissuto, studiato, lavorato a lungo, e appunto, grazie a questa conoscenza, fa lo sforzo qui di attingere, come scrive egli stesso, a storie, processi, eventi sportivi e biografie per dipingere il quadro di un paese. Questa frammentarietà mi pare una virtù, l'unico modo per costruire una storia dell'Italia moderna e comunicarla ai miei lettori. E quindi troveremo qua una lunga serie di episodi, personaggi, manifestazioni culturali, espressioni della vitalità sociale, col rischio magari, come avverte lo stesso autore, di perdere di vista le tendenze di fondo per dilungarsi su episodi magari apparentemente marginali, ancorché significativi. Al termine di questo percorso, Foote prevede comunque per l'Italia, sempre capace di cambiare e di sorprendere, scrive, un futuro che non sarà forse roseo, ma di certo non sarà monotono. Un protagonista della Prima Repubblica, che troviamo ampiamente descritta nei due libri di storia che vi ho citato, fu il primo presidente del Consiglio non democristiano, Giovanni Spadolini, storico, giornalista e politico. Come tale fu segretario del Partito Repubblicano, fu il primo ministro dei beni culturali, appunto presidente del Consiglio fra il 1981 e la fine dell'82, poi presidente del Senato. La sua carriera è ricostruita da Cosimo Ceccuti, che gli fu molto vicino, ed è segretario generale della Fondazione Spadolini Nuova Antologia, che lo stesso Spadolini aveva creato e alla quale aveva affidato tra l'altro la sua leggendaria biblioteca. Il libro si intitola Giovanni Spadolini, quasi una biografia, edizioni Polistampo, 208 pagine, 16 euro, che ripercorre la carriera di Spadolini proprio attraverso le tre fasi principali del suo impegno come storico, come giornalista, fu direttore del Resto del Carlino, del Corriere della Sera, e come politico. Una versione ricchissima di illustrazioni, quella che troviamo curata dallo stesso Cosimo Ceccuti nel libro Giovanni Spadolini, frammenti di vita di un italiano 1972-1994, 120 pagine, 25 euro, che racconta esclusivamente il percorso politico di Spadolini, che era iniziato con l'elezione al Senato nel 1972. Una componente insostituibile della storia d'Italia è certamente lo sport, in particolare il calcio e in particolare la Juventus, che ci è presentato da due importanti storici contemporanei dell'Università di Torino, Aldo Agosti e Giovanni De Luna, autori di Juventus, storia di una passione italiana dalle origini ai giorni nostri, pubblicato da UTET, 368 pagine, 20 euro. I due autori non nascondono la loro fede juventina, ma rileggono con rigoroso metodo storico le vicende della Juventus. Col passare degli anni, dopo le passioni giovanili, scrivono, la Juventus entrò nel loro laboratorio di storici proponendosi come un tema da studiare, e così si sono resi conto i due studiosi che quella nostra passione trascendeva i nostri sentimenti personali, si rispecchiava nelle forme tipiche in cui si manifestano le passioni forti, l'amore e l'odio, in quella di molti milioni di italiani, venendo in qualche modo a costituire un tassello del mosaico di cui è fatta la loro complicata identità. E quindi, attingendo a moltissime fonti e testimonianze, Agosti e De Luna seguono le vicende della Juventus, dagli esordi del calcio in Italia, che vide la prima squadra nella città sabauda, il Torino Football Club, fondato nel 1891. A Torino nacque anche il campionato di calcio nel 1898 e a Torino era nato nel 1897 la Juve, fondata da un gruppo di studenti del liceo Massimo D'Azeglio. Da lì il percorso stellare della squadra, che si inserisce appunto nella storia d'Italia, in particolare nei momenti più tesi, come dimostrano queste righe sulla Juventus negli anni della contestazione operaia. In quegli anni Torino in particolare divenne un crogiuolo di esperienze esistenziali e apporti culturali molto diversi, in grado di ridisegnare in profondità i suoi tratti originari anche per quanto riguardava le appartenenze calcistiche. Ancora agli inizi degli anni 60, il tifo juventino manteneva inalterata la propria connotazione prevalentemente borghese, mentre quello per il Torino sembrava conservare una più accentuata specificità popolare. Il vecchio operaio di mestiere, perduto lungo i sentieri di un'ideologia che coniugava produttivismo aziendale e stalinismo, la sostanziale accettazione del modo di produzione capitalistico e la fideistica attesa di una futura palingenesi sociale, affidava per lo più alla passione per il toro l'ansia di riscatto per la propria inesorabile subalternità. Tanto più radicale era la sua avversione per la Juventus, squadra del padrone, quanto più erano consolidati i segni della sua inferiorità sociale. Le autorevoli eccezioni del tifo juventino di sinistra, Palmiro Togliatti e il segretario della CGIL Luciano Lama, erano le più note, sembravano confermare la regola di questo paradigma interpretativo. Il movimento operaio a Torino era granata e il carattere borghese, per bene, moderato, composto del tifo juventino, continuò a riproporre per lungo tempo una tradizione che risaliva almeno fino agli anni tra le due guerre mondiali. Il tifoso juventino, scriveva Giampaolo Ormezzano nel 1967, si distingue per la sua normalità, e non è un gioco di parole. Egli dunque sfugge a un'esemplificazione troppo vivida, non si sbraccia troppo per non sciupare il vestito sempre nuovo che ha indosso. Agli juventini non solo, ricordo il libro di Fabrizio Gabrielli nella serie di 66th and Second dedicata agli sportivi, Cristiano Ronaldo, storia intima di un mito globale, 240 pagine, 17 euro, nel quale l'autore, al di là delle prodezze sportive, cerca di andare a fondo della personalità del campione, ne cerca, ne studia i particolari e, soprattutto vuole rendere la sua complessità psicologica. E a questo punto il confettino. Restiamo nel calcio, ma cambiamo insegna e mito col libro di Enrico Brizzi, Pep, il mago e di Porta Vittoria, pubblicato da Dea, 294 pagine, 13,90 euro. Un libro per far conoscere i giovani Giuseppe Meazza, il grande campione al quale è dedicato lo stadio di San Siro. È un grande campione milanese di cui ci parla un popolare scrittore al suo esordio come autore di libri per ragazzi. E con questo ringrazio Luca Cremonese redazione, Gianmarco Ferronati regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.